E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern? Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ecco, le consigliavo solo di cambiare il modo di rapportarsi con le persone che chiamano, anche perché le ricordo che l'educazione è alla base di tutto, insomma. Se no la trasmissione se la fa lei da solo la prossima volta. La frase del giorno, caro Parenzo, non riguarda Roma Capitale, non riguarda la mangiatoia di Roma, che dimostra la nostra teoria, cioè che i profughi e i rom sono un affare per un sacco di gente. Stai zitto per adesso, stai zitto, stai fermo, i profughi e i rom sono un affare per un sacco di persone, destra, sinistra, non importa. Sull'accoglienza ai rom, sull'accoglienza soprattutto ai profughi, ci mangia un sacco di gente. Dunque, ergo, più persone arrivano in Italia, più persone arrivano e più cooperative, politici mangioni, funzionari sono contenti perché speculano e se mangiano un sacco di soldi nostri. Ma la mia apertura riguarda la frase del giorno che ho letto. Inutile dire che non sono d'accordo con questo. Ma sì, poi avrei modo di spiegare, ci sono 2 ore e mezzo di trasmissione, 2 ore e mezza per modo di dire, ovviamente. No, io forse me ne vado tra un po', perché sì. Mi sono stufato già con questa apertura. Vai avanti. No, però io ti voglio dire, hai mai fatto un controllo alla prostata? Io? Ma ho 39 anni, ancora no. Beh, però ti vedo maluccia da quel punto di vista, Perché 39 anni? Sì, però a 39 anni o hai un'attività sessuale molto molto intensa. Questo molto... posso anche confermarlo, ma non capisco. Allora, se hai un'attività sessuale molto molto intensa, non devi avere problemi. Altrimenti anche a 39 anni un controllino lo farei, un piccolo controllino. Ti chiedo scusa, come si aggancia questo con l'attualità politica, con Varoufakis? Che ci metti sempre in mezzo sto Varoufakis. No, perché? Ma è sempre fissato con sto Varoufakis. Cazzo, no, c'è Varoufakis. Ma chi se ne frega di Varoufakis? Noi che ce frega di Varoufakis. Allora, no. Ma anche qui alla Confindustria oggi la frase, hanno parlato di Varoufakis. Ma che me ne frega a me. La frase del giorno è questa. Ogni anno, questo è un dato, ogni anno 36.000 italiani sono colpiti da un tumore alla prostata e tocchiamoci tutti i maron. Ma è una notizia terribile, scusa. 36.000 italiani sono colpiti ogni anno da un tumore alla prostata e tocchiamoci i maron. Vittorio Feltri, questa è la frase del giorno, credo oggi sul giornale, scrive: i maschi rischiano il cancro per troppo pudore. Cioè dice che noi abbiamo pudore, non ci vogliamo far controllare. Quando la dottoressa mi ha sodomizzato per i controlli, dice il signor Feltri, il mio deretano era umiliato. Così scrive. Sì, però amico mio, io non è che per forza uno deve farsi visitare da medici femmine. Insomma, magari uno ha meno pudore, cioè ha più pudore con i medici femmine, meno pudore se c'è un maschio. Comunque lui sostiene questo, che sostanzialmente noi abbiamo paura a farci visitare per prevenire la prostata per un problema di pudore. Non è il pudore, però, è la metodologia, diciamo. Io però ogni volta che sento parlare di prostata mi ritorna in mente la prostata. Per curarla l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare. Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì, o se no fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese, io sono a 18, quindi 21. Siamo all'inizio del mese, fate i vostri conti, mi raccomando, fate i vostri conti maschi intorno ai 45-50. Bene, siamo qui, 800-24-00-24 con Berlusconi che dopo le elezioni ha prima detto che Ancelotti non verrà al Milan, cioè Ancelotti ha detto che non andrà al Milan, e poi ha venduto adesso oggi il 47% del Milan per 470 milioni di euro. Molti pensano che non siano coincidenze, cioè il fatto che queste due notizie siano arrivate dopo la tornata elettorale non siano coincidenze. Ha lasciato passare l'elezione e poi ha detto, vabbè, insomma, Ancelotti non viene più al Milan, e poi ha venduto una parte della squadra. Polemica 5 stelle Partito Democratico. Il Partito Democratico per bocca del suo presidente, soprattutto del commissario a Roma, non so come diavolo si chiama, che si chiama Orfini, che una volta era bersaniano e poi è diventato renziano. Signor Orfini ha detto che i boss dei clan sono fan di Di Battista e Di Maio, e il Movimento 5 Stelle ha chiesto addirittura un risarcimento. Si riferisce Orfini a un boss, credo di Ostia, che credo abbia messo un like su una pagina dei 5 Stelle. Orfini: i clan di Ostia considerano degli idoli Di Battista e compagnia, di cui sui loro profili Facebook condividono sistematicamente le cose. Questo non è colpa di Di Battista e Di Maio, però se tu sei in un partito in cui il cui proprietario è uno che dice che la mafia non esiste, come ha fatto Grillo, e chiedi quello che chiede la mafia sistematicamente, cioè che Marino se ne vada, il rischio che ti condividano e ti considerino un idolo un pochino c'è. A noi non capita, noi ci minacciano, a loro li condividono. Ora si può pensare tutto dei 5 Stelle, uno può pensare che sono, come dire, no, che sono che non presentano proposte, che sono un po' isolati, eccetera. È una battuta infelice. Accostarli alla mafia, no, accostarli non alla... che è un'iperbole. Vabbè, scusa, ma per... con gli altri tu sei sempre. Ma è una stupidaggine. No, ma io l'ho per me ha detto una stupidaggine colossale. Dopodiché, ma dai, su. Ma chi se ne frega se un boss di Ostia condivide una cosa che ha detto Di Battista o Di Maio? Il punto è un altro, a brigante e mezzo, cioè a battuta di Grillo, te lo spiego, a battuta di Grillo, perché Orfini ha detto Di Battista è l'idolo dei clan di Ostia, capita quando si ha per capo Grillo che dice che la mafia non esiste, a brigante, ma veramente brigante, non ha mai detto, insomma, non è che ha detto la mafia non esiste, dai, no, su, adesso diciamo pure, suoi spettacoli, ma non ha detto la mafia non esiste, no, dai, su, no, vabbè, senti questa cosa qua, poi abbiamo tempo, Orfini ha detto il Partito Democratico è l'unico partito antimafia della capitale. Io però vorrei segnalare ad Orfini che sicuramente sarà un partito antimafia, quello che vuoi, però quelli che sono stati messi al gabbio l'altro giorno, cioè ieri, nella nuovo filone di inchiesta su Roma Capitale, la maggior parte sono del Partito Democratico. Sono del Partito Democratico. C'era il presidente del Consiglio Comunale, che è uno che stava in Forza Italia e poi è passato nel Partito Democratico. C'era un altro esponente importante del Partito Democratico, un altro ancora, gente che ha lavorato con Veltroni. Cioè, io non so se il Partito Democratico è l'unico partito baluardo contro la mafia. Fatto sta che mezzo Partito Democratico della Capitale sta in gattabuia. Io credo che il Partito Democratico sia assolutamente in grado e sia, diciamo, oggi il partito dell'antimafia capitale, perché è l'unico partito che sta agendo. Allora, abbiamo già un collegamento pronto. Però, Salvini dice che con i profughi, con gli immigrati dobbiamo prendere un'isola deserta. Deserta, l'isola deserta. Prendiamo un'isola deserta e ci facciamo, ci prendiamo Buzzi, ce l'ha, lo mandiamo a lavorare, ce ne sono. Ce n'ha, quando ce ne sono. Diciamo Poi sbaglia la declinazione di migrante, la definizione di migrante, sentite, sbaglia con la grammatica. I profughi veri sono la minima parte, gli altri tornano da dove sono venuti perché non sono migranti, anche sto vocabolo nuovo inventato dalla Boldrini qualche anno fa, sono clandestini. Il migrante è un gerundio, quando migri sei un migrante, quando stai qua per 2 anni non sei un migrante, sei un clandestino che campa a scrocco del prossimo. E chiudiamo con De Luca. E chiudiamo con De Luca che dice che la Bindi si dovrà reingoiare le parole dette. La Bindi, De Luca, governatore della Campania. Querelare la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi. Non si poteva soprassedere vista la vittoria No, perché no. Per me non conta l'aver vinto o non aver vinto, conta far ringoiare cose ignobili che sono state dette. Che clima nel Partito Democratico, eh? Che clima, che clima, ma abbiamo con noi, non sbaglio stavolta, cittadino Giarrusso. Buonasera, buonasera. Buonasera, avete imparato, la rieducazione funziona. La rieducazione dei 5 Stelle. Devo dire la verità, Giarrusso, io non pensavo che ancora stavate sul 20% dopo queste elezioni. Io pensavo che, che c'era stato un crollo totale. Ma il problema era che non pensavi. È da tempo che non pensi più, da quando sei stato abbandonato dalle tue cellule cerebrali. Io voglio dire al senatore invece. Io volevo tornare sull'isola di Salvini, che è bellissima. Perché? Abbiamo capito cosa stava acquistando Belsito con i soldi pubblici in Africa. Cioè, non dici, la famosa isola per i migranti. È quella che stava acquistando? I diamanti servivano per quello? Cioè, tu dici, la Lega con i soldi pubblici all'epoca voleva acquistare un'isola dove poi spedire tutti i migranti, voleva spedire il Trota in vacanza permanente. Vabbè, qui no, c'è Orfini. Parliamo invece di quelli che il senno hanno perso. E Orfini ci sono quelli ha dato... che non l'hanno mai avuto, come il povero Parenzo, ma ci sono quelli che l'hanno proprio perso, come il povero Orfini. Orfini vi ha dato dei ricordare vi ha dato dei mafiosi, vi ha dato dei mafiosi sostanzialmente. Ma quello ne risponderà nelle sedi opportune, perché veramente, a parte il delirio puro, ci sono anche le diffamazioni. No, ma il problema è che dà degli idioti agli italiani, no? In che perché senso? Lui pensa che gli italiani sono idioti e non si ricordano che appena una settimana prima della prima operazione Massa Capitale, quelli che volevano mandare a casa il sindaco di Roma erano quelli del PD. Sì, una parte, sì, non lo dicevano apertamente, scatenati, ma quasi scatenati. E quando io ho chiesto a Marino ma cosa voleva il PD dal sindaco di Roma, l'ho chiesto in antimafia, Marino è andato anche là in escandescenze. Perché qua dobbiamo capire una cosa. Però scusi, Giarrusso, io la voglio anche chiedere. Se non sono mafiosi, sono tutti pappe e ciccia, questo è il problema. No, io voglio chiedere una cosa. Allora, Orfini ha detto che il clan di Ostia, o comunque i mafiosi, considerano idoli due dirigenti importanti dei 5 Stelle, cioè Di Battista e Di Maio. Questa è un'infamia evidente, allegata all'altra infamia falsa e infondata. Cosa? Quella che Grillo avrebbe detto, che la mafia non esiste. Quello che non esiste purtroppo è il cervello di Orfini. Non che Grillo abbia detto una cosa, è un uomo senza cervello. Ma purtroppo uno che dice una cosa del genere e pensa che qualcuno gli crede veramente. Allora, ma il PD è un partito mafioso? Allora, il PD è un partito che candida a Enna uno che ha 2 anni prima è dichiarato impresentabile per le frequentazioni che ha avuto col capomafia di Enna. Stiamo parlando di Mirello Crisafulli. Non ha condanna, è stata questa. Sono loro che candidano la gente che va a sedersi con i mafiosi e a contrattare appalti. Cioè, il PD è connivente con la mafia, questo vuoi dire? Ma alcune sue branche, come dimostra ovviamente l'operazione Mafia Capitale, sono pesantemente infiltrate. Noi infatti diciamo che il comune di Roma va sciolto per mafia e va sciolto rapidamente. Dunque Marino va mandato a casa. Marino va mandato a casa subito. Marino che se ne va a casa con le sue gambe è un favore che gli facciamo. E invece come se ne deve andare deve a casa? Deve intervenire, perché è diverso. Se lui si dimette, perché si non andate con i forconi? Cosa? Perché non andate con i forconi? Cosa? Perché non andate con i forconi come durante la Rivoluzione Francese? La Rivoluzione Francese. Ma c'è la legge, noi chiediamo il rispetto della legge. Vabbè, questo qualunque vediamo. Comune in base al codice antimafia, per quello che è successo, noi stiamo parlando di assessori, presidente del consiglio, va sciolto, consiglieri di maggioranza, consulenti, di tutto, arrestati per queste inchieste. Va sciolto per mafia, ho capito. Sciolto. Ragazzi, le frasi cult di questo nuovo filone d'inchiesta su Mafia Capitale sono queste: la mucca va munta deve magnà. Questo è il mitico Buzzi, uomo delle cooperative de sinistra. Poi parla di Coratti come Balotelli, perché non fa squadra, agisce da solo, l'ex presidente del consiglio comunale PD. Sempre Buzzi, i consiglieri comunali devono stare ai nostri ordini, non noi ai loro, li paghiamo. I politici che devono obbedire. E poi ci mangiamo tutta Roma. Lui, cioè Marino, se resta sindaco altri 3 anni e mezzo ci mangiamo tutta Roma. Adesso, quando uno dice una cosa del genere, per carità, è un'intercettazione. Come si può dire, come ha fatto il Partito Democratico a Roma, che loro sostanzialmente, no, che è uno scandalo di destra, eccetera eccetera. Cioè, sono in, cioè, fino al collo, no? Sono impelagati fino al collo. Però, senatore Giarrusso, No, ma scusa, Marino è la conferma che in realtà non c'entra nulla, perché non controlla nulla. Peggio. No, peggio. Cioè, dobbiamo dire una cosa. Una semplice e banale osservazione che anche Parenzo è in grado di cogliere subito. Vediamo. Se non ci fossero state le due operazioni Mafia Capitale, Buzzi e Carminati, dove sarebbero a quest'ora, oggi, in questo momento? A fare affari. Nei loro uffici a contare i soldi che arrivano dal Comune di Roma, giusto? Sì. Con tutti i loro amici da governare. Assolutamente. Con... Allora? È così? Sì, allora? Quindi come si fa a dire che quello è un sindaco che ha contrastato Buzzi e Carminati? Cioè, non ha fatto chi nulla. Non perché... ha arrestato lui, non ha fatto nulla, assolutamente. Anzi, ma è più anzi. Inconsapevole o più complice? No, inconsapevole, no, o complice? Fanno i pesci a brodo, questa è la verità. Cioè sapevano tutto. Al potere, caricano di tutto. Allora, noi dobbiamo dire una cosa. Marino sapeva tutto. Marino che c'entra? Ma Marino sapeva tutto o no? Dire una cosa che ha detto la dica, Giarrusso. Il PD ha detto, il procuratore di Palermo Teresi ha buttato a mare 30 anni di lotta alla mafia, cambiando la norma sul 416 ter, il voto di scambio politico mafioso. Cioè, non ho capito, ecco, la pena del 41%, lei sta, lei sta dicendo che è connivente con la mafia il PD, che ha fatto favori alla mafia. È ancora più grave. Ma là, nelle scorse Giarrusso. Settimane hanno presentato la deputata del PD Bossio, Bossio, membro della commissione di mafia, una proposta di legge che stanno discutendo in commissione giustizia della Camera, no, ma per togliere l'ergastolo ai mafiosi. Come togliere l'ergastolo ai mafiosi? Ma no, sì, guardi, è così. Vabbè, ma anche la storia di persone come la senatrice Pezzo Pane, ma chi se ne frega, dai. Mafia. Allora, scusa, ma non si può dire una bestialità. Vabbè, poi controlleremo. Giarrusso, un'altra cosa, no, mi dico. È così. Oh, ragazzi, volete stare calmi? Proposta di legge Bossio. E vabbè, d'accordo, poi appena ci siamo, Giarrusso, abbiamo sollevato la questione. Sì, che è successo? Hanno detto no, quella non verrà trattata. Sa cosa fanno? Fanno una legge delega. Va bene, adesso non ce ne frega niente di questi dettagli. Provvederà Giarrusso, si fermi un attimo. Fermi. Mi dicono che però lei, che è contro la casta, si è entrato oggi, circolano delle foto con lei che entra trionfalmente nella saletta VIP di Fiumicino. Non so se sia oggi la cosa o no. Nella saletta entro a prendere il biglietto, senatore di Fiumicino, l'entrata trionfale del cittadino senatore Giarrusso nella sala VIP di Alitalia. Nella sala VIP di Alitalia, beh, anche per la biglietteria, certo, abbiamo le convenzioni. Io ho il biglietto. Ma che ci faceva poi col coso, con l'altro giorno che si stava facendo i capelli con quelle strane cose in testa, che faceva? Che c'ha le mesh? Che faceva? Le mesh? Per trattamenti anticaduta, ma secondo me sta facendo dei trattamenti anticaduta? Sì, ma perché non si fa pure il ritocchino, Giarrusso? Qualche ritocchino, qualche siringhina? O anche l'allungamento del pene a questo punto, visto che... No, di quello non ho bisogno. No, perché lo chiedevo perché è super dotato, non ho capito, è super dotato lei. Giarrusso? Giarrusso? No comment. Ah, no comment. Scusi, ma qualche controllino alla prostata l'ha fatto? Perché Grillo lo sostiene queste cose, eh? No, glielo chiedo perché è importante quella. Lei ha una certa età. Che età? 50 anni, quindi i controlli vanno fatti. L'ha fatto o no? Mi raccomando. L'ha fatto. Vabbè, fatto, comunque. Fatti. A presto! Ma il problema era che non pensavi. È da tempo che non pensi più, da quando sei stato abbandonato dalle tue cellule cerebrali. Questo è il problema. Allora, Sgarbi vuole fare causa anche a Facebook, oltre che ai carabinieri, Parenzo. Buonasera, segreteria di Buzzi. Vuole un migrante? Ah, A proposito, un'altra delle frasi culto di questa inchiesta è quella: gli ho detto fatemi fare un campo nomadi, no? Te ne compro tre di case, no una. Cioè sì. i campi nomadi no, sono un affare per tutti. Ma no, sì, ma questa è criminalità. Cioè quando io ieri dicevo che questi hanno rubato, e allora? Ma allora, quando ti dico che questi hanno rubato dovrebbero chiedere scusa ai migranti, ai rom. Ma quale chiedere scusa? Ma dovrebbero chiedere scusa a noi, sono soldi nostri, cioè, che c'entrano i rom e migranti. Tu hai detto all'inizio di questa trasmissione, io mi sono fermato, hai detto, no, perché mi hai detto una puttanata mega galattica. E quale sarebbe la puttanata? Scusa, diciamo con grande tranquillità, in un minuto e 40 secondi da largo. Dimmi. Anche meno. Perché quando tu hai detto che più arrivano più questi rubano, beh, certo, in realtà chiaro, il presupposto, no, chiaro, un corno. Ma certo. Il presupposto dovrebbe essere diverso, cioè soldi ben investiti sì, fanno sì che ne spendi meno e sì, tuteli le persone. Questo sì, dovrebbe dire una persona non buonista, perché io non sono buono. Ma che c'entra? Per... No. Ma cosa c'entra? Scusa. Sto dicendo semplicemente che in Italia, che funzionato così fino adesso, ha funzionato così. Ma cioè... perché sono dei ladri. Ma no, ma sono dei ladri perché facevano arrivare più persone, cioè non c'è. No, ma che facevano arrivare intanto? Vabbè, d'accordo, non è così. Non è che chiamavano la Libia o De Venne. No, non fai nulla, no, loro non fai i governi vari e le amministrazioni non fanno, i politici non fanno nulla per impedire l'arrivo. Non c'entra niente. Perché la se c'è corruzione, io ti ho detto una cosa, che se si fossero spesi meno soldi e ci fosse stata meno corruzione, avremmo fatto due servizi. Ma no. Uno non si sarebbe rubato. Ma no. Due, i migranti non sarebbero in quelle condizioni. Che scoperta, che hai fatto? No, ma siccome che scoperta? È così banale da che scoperta, che ci si dimentica però qual è la parte lesa, cioè i migranti. Lesissima, no? Guarda, allora, ma quale parte lesa? Ma quando mai? Allora, te lo dico da qui. Ma semplicemente sono messi in mezzo, punto. Te lo dico da allora, qui. Il padre di uno dei rom, o di tutti i rom, io, anzi, non si... ti dico di più. Dai, Davide, mi fai finire qua. No, perché dai. No, perché se io fossi un rom, farei una class action adesso, ad esempio, bene, contro il comune. Un'altra proposta, la class action dei rom contro il comune, bene. Sì, sì, ma assolutamente. Class action, ci manca solo questo. Invece sì. Tanto per farti capire, è una buffonata di certo, lo Stato colabrodo, certo, faccio appello a alcuni amici e miei avvocati, gratuitamente, anche Tormina se vuole, gratuitamente facciano una class action per difendere i rom da questi ladri di Stato. Benissimo. L'altra cazzata delle 19:21. Ecco. Ti faccio però sentire il padre di quei rom che hanno investito la la colf filippina, ammazzandola, la colf filippina, uccidendola. Sentiamo che cosa dice. La macchina era tutta regolare. Andiamo anche lui per fare uscire anche a lui. Non è mica fatto apposta, stiamo scappando via. Non siamo stati andare a rubare macchina regolare, solo per i documenti, per i patenti e per le assicurazioni. Facciamo risentire meglio, la macchina era regolare, solo la patente e l'assicurazione non c'erano, era tutto regolare, mancava la patente e l'assicurazione. Adesso lo facciamo sentire meglio. Allora, voi immaginatevi la situazione, no? Immaginatevi la situazione in cui ci siano un presidente di regione come De Luca, un presidente di regione come De Luca del Partito Democratico, con un partito, il Partito Democratico, che ha voluto per forza qualche tempo fa approvare una legge come la legge Severino, l'ha voluta approvare per forza, e adesso si trova nella situazione di avere il principale governatore eletto in questa tornata elettorale del Partito Democratico, in una regione molto importante, la quarta regione italiana, credo la Campania, eletto, e che dovrebbe essere sospeso immediatamente. Poi in Italia ci sono sempre gli artifici, eccetera, i ricorsi, il TAR, il contro TAR, non sospeso adesso, ma bisogna aspettare un mese, l'insediamento, si può insediare, faccio il governo, non faccio il governo, e la Bindi e quell'altro, eccetera. Dovrebbe essere sospeso, io dico con affetto, io adoro De Luca, ma la legge è quella, l'avete approvata voi, altrimenti cambiatela. Hai ragione. Questa è la situazione, questa è la situazione. Principale, una delle principali regioni italiane. Hai in mano ragione. A un signore che dovrebbe essere sospeso, immediatamente, non fra un mese, fra due mesi, sospeso. E se non viene fatto è solo per ragioni politiche, perché altri signori sconosciuti sono stati sospesi immediatamente. Poi c'è la principale città del paese, cioè Roma, in mano al Partito Democratico, un sindaco del PD. il quale, immaginatevi voi la situazione in cui invece di Marino c'era Alemanno. Sì. Invece di Marino c'era Alemanno. Manifestazioni di piazza gli sarebbero state. Richieste di dimissioni, tutta consiglieri comunali, importanti dirigenti del Partito Democratico coinvolti, soldi a fiumi, sprechi, mazzette, tangenti, mafie, eccetera, eccetera. Avrebbero chiesto non la testa di Alemanno, ma la sua impiccagione. Al suo, io non dico niente, io dico solo questo. Poi per me Marino può restare altri 100 anni. Lui dice di essere un argine contro i mafiosi, può darsi pure. Avrebbero chiesto l'impiccagione. Invece qui abbiamo il Partito Democratico che difende De Luca e difende Marino. Una cosa incredibile, è una mutazione genetica del Partito Democratico, questa è la realtà. Titoli del TG3. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Si allarga l'inchiesta Mafia Capitale, tra gli indagati anche il sottosegretario all'agricoltura Castiglione NCD per la gestione del CARA di Mineo. Primi interrogatori di garanzia in carcere per gli arrestati in una nuova intercettazione Odeven si organizza per versare le mazzette all'estero. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Marino e Zingaretti, orfini al TG3, il PD ha già fatto pulizia, chi è contro la mafia deve sostenere Marino. Mattarella all'Expo contro gli sprechi alimentari, fare in modo che i prodotti invenduti in prossimità della scadenza siano dati a chi ha bisogno. Salvini in giacca ai giovani industriali, confrontiamoci su tutto, l'euro è contro l'Italia, i Rom l'ultimo dei problemi, ma restano le distanze. Grecia l'intesa si allontana, Tsipras riferisce al Parlamento e respinge l'accordo con i creditori, impicchiata le borse di Atene, meno 5%. Una lunga trattativa, ma Berlusconi alla fine ha venduto il 48% del Milan al broker thailandese B, che entro 2 anni sarà il padrone unico del club. Allora andiamo. Giovanna da Genova, vai. Salve. Dica. Allora, volevo dire, intanto viva Lorenzo. E poi volevo dire questo, cioè Non ho capito, scusa Giovanna, la prima cosa non l'ho capita bene. Viva Parenzo. Viva Parenzo, bene, viva Parenzo. Sono d'accordo con lui. Grazie. E comunque se mandiamo, come dice Salvini, i Rom in un'isola deserta. No, veramente diceva i profughi, gli immigrati, insomma. Beh, quelli, uguale. Quello che... Sì, vabbè, gli immigrati. Beh, insomma, no? Poi così diverso. Ci mangiamo meglio, no? Come? I politici ci mangeranno poi meglio. I politici ci mangeranno meglio anche con l'isola. Sì, probabile che ci mangino pure con l'isola da gestire, non c'è dubbio. Cioè, bisogna gestire, sì, quell'isola, magari ci campano. Io pure direi quello. Che veramente le scuse dovrebbero chiederle sia ai Rom che agli esseri comunitari. Ma non, quelli non c'entrano niente. Questi sono soldi del contribuente che vengono sprecati. Che vengono sprecati. Capito, punto. Scusa, che c'entrano i Rom e gli immigrati? Cioè, non, ma questi soldi dovevano essere spesi per loro. Ma no, che si vuol dire non spesi per loro? Per gli italiani, perché quelli sono soldi che vanno in sicurezza se questi sono messi a posto, non lo capite? Salami. Ecco. Tu, cioè la signora, la nonnina l'ha capito. Tra l'altro voglio dirti questo, perché l'ha detto bene il TG3 che hai fatto sentire poco fa. Sì, sì. A Santa Margherita stamattina, lo abbiamo visto perché l'abbiamo incontrato, sì, con Mentana, Salvini, sì, sembrava un capo di Stato. Cazzo, è arrivato qui dai miei amici giovani industriali, vestito con la camicia bianca, sì, la giacca, allora... niente bava alla bocca, dunque... civile. No, aspetta, non ho capito, che c'entra la bava alla bocca? No, perché uno se si mette la felpa, se si mette la felpa alla bava alla bocca, non ho capito. Bocca metaforica, cioè non ha, ma uno va, non una c'era. Volta fa un comizio, una volta fa qualcosa, no, ma scusa, ma non lo sai il gioco della politica, non lo sai com'è. Ma stai attento a quello che ti dico, non adesso lo sto, come dire, infiocchettando, ma è così. E allora? Giacca e cravatta, perfetto, sì, non sudato, anche cordiale, buongiorno, allora? Buonasera, uomo di dice io alla domanda dei giovani imprenditori, che dicevano, ma allora lei con la sì, ha detto, non sono il problema principale dell'Italia. E questo, guarda che importante. Sì, ma tu ti rendi conto? Ma certo, ma poi è normale, dopo in campagna elettorale... è uscito da qui, è andato a Viareggio, si è messo il solito cartello stradale e ha cominciato a sbraitare contro i campi nomadi. Cioè, tu ti rendi conto di cosa stiamo normale, parlando? Normale, eh? Normalissimo, normalissimo, normale. Assolutamente per normale. Per te è normale leccare i piedi, per te è normale. Ma quello normale, è quello normalissimo, sei tu. È normale i mucchi, se a te non ti piace, è normale la gente che non ti piace leccare le pene, ed è normale Salvini che si mette la giacca per vivere. Normalissimo. Vabbè, è tutto normalissimo. È tutto normale. Ma assolutamente normale. Alzo le mani e lecco i piedi, che devo fare? Tutto normale. No, ma non hai capito ancora, ma tutto quello che hai detto è assolutamente normale. Bene, ma che Salvini vada a fare dagli industriali, dagli industriali non è la cosa principale. Non può coglionarli, siccome qui è gente che ogni giorno va in fabbrica e dalla mattina e apre... Ma il gioco sono le due facce. Qua, siccome con gli immigrati ci lavorano e hanno anche loro il io non capisco perché critichi le persone. No, ma non è che è una considerazione politica. Ah, bene, ottimo. Roberto dalla provincia di Roma. L'ipocrisia mi dà. Vai Roberto, non c'è nessuna ipocrisia, è la realtà. La realtà di come si fa politica. Roberto, provincia di Roma, vai. Ecco, pronto, mi senti? Sì. Giuseppe Cusciani, complimenti per il tuo lavoro fantastico. Dopodiché, due battute. Una, per evitare di fare controlli con il massaggio prostatico procedendo dall'ano, bisognerebbe semplicemente ricordarci quello che diceva Seneca, un gran filosofo antico greco, che diceva che la masturbazione si raggiunge l'acume della felicità, perché lo fai quando vuoi, come vuoi, e così eviti. Non ho capito, anche... però spiegami Roberto, allora, tu sei, siamo passati repentinamente da mafia capitale, i profughi, gli immigrati, alla masturbazione. Cioè... Sì, perché è più importante parlare della prostata e dei tumori, e quindi... E dunque tu dici che indicazione dai da questo punto di vista? Dove avere è sentito... molto semplice, la danno tutti i clinici competenti e dicono, invece di fare il controllo attraverso un massaggio prostatico, se tu fai l'autocompiacimento, detto anche masturbazione, metti in moto la produzione di altre cellule e quindi con i tubi deferenti si svuota e non c'è accumulo di sostanza che può dare l'inizio a processi degenerativi. Capito, Parenzo, se ne è parlato oggi o no lì di questo, di questi temi? Guarda, questo mi è sfuggito, perché in realtà c'era il ministro Orlando a cui abbiamo... Non si è parlato di domande. Come superare i problemi alla prostata, attraverso quali metodi? No, Roberto, diciamo, Roberto, nei workshop ufficiali no. Non c'era. Roberto suggerisce la masturbazione. Se sia tratto da un articolo di Gramellini oggi sulla stampa, però la situazione della famiglia Rom implicata nell'omicidio stradale, lo chiamo così io, di quella povera colf filippina è abbastanza incredibile. Cinque giorni per trovarli, già due, appena due giorni invece per liberarli. È stato già scarcerato Samuel, il maggiorenne, perché le testimonianze molto autorevoli degli altri familiari addossano tutte le responsabilità sul minorenne, che è destinato a pene più lievi. In quell'auto l'equipaggio era formato da un 17enne senza patente al volante di una vettura senza assicurazione che al posto di blocco si fa prendere dal panico e schiaccia l'acceleratore al posto del freno per un chilometro intero. Poi c'è un padre malato di cuore che vive in una roulotte infestata dai topi eppure possiede 24 macchine. Samuel, il quale ovviamente si guarda bene dal soccorrere gli investiti, rimane alla macchia 5 giorni. Dai su ragazzi, ma come si fa a credere alle favole raccontate da questi qua? Solamente i giudici ci possono credere. Comunque sentiamo il padre che con tutta semplicità dice la macchina è regolare, solo che mancavano l'assicurazione. Vediamo anche lui per fare uscire anche a lui. Non è mica fatto apposta, stiamo scappando via, non siamo stati andare a rubare macchina regolare solo per i documenti, per i patenti e per l'assicurazione. Scusa, la regolarità della macchina che vuol dire? Cioè... No, dice che non l'ha rubata questa. Ma sì, che l'ha comprata poi. Comunque c'è... è pazzesco, sì, effettivamente è una cosa incredibile. Dai, insomma, è incredibile. Ma non c'è da dai. Commentare niente, siamo di fronte alla criminalità, ma è anche a cattivi comunicatori. Cioè, state zitti, ma che andate a dire? No, ho capito. Beh, dovresti fare l'ufficio stampa tu, l'ufficio stampa. Allora, Sgarbi vuole fare causa a Facebook perché sulla sua pagina ha messo un quadro molto famoso di Courbet, quello con la figa molto pelosa di fuori. Si chiama L'origine del mondo. Esatto, è quello con la figa molto pelosa di fuori. Si chiama L'origine del mondo. Sì, vuoi che dico in un altro modo? Con la patata. No, aspetta che tu lo chiami L'origine del mondo. Ma molte persone non sanno cos'è L'origine del mondo, magari. Vanno su Google, anche quei somari di Radio Padania avranno Google, scrivono Origine del mondo. E viene fuori un bel pube femminile. Con stimola alle volte la curiosità del pubblico anche, no? Senza svelargli sempre tutto, senza fargli annusare, come dire, no? La curiosità. Comunque hanno sospeso la pagina, hanno chiuso, bloccato la pagina. Una stupidaggine. Gli faccio causa, è arte, non la pornografia. Ha ragione, ha ragione. Va bene, dai, Francesco da Salerno, 800 24 00 24. Ah, c'è da sentire Busi dopo, spettacolare ieri sera. Signor Busi, stupendo. Vai, Francesco, dimmi. Avrei voluto parlare lunedì dello spazio che avete dedicato immeritatamente a Salvini per 40 minuti. No, non erano 40 minuti, ma il lunedì di Salvini è un classico ormai per noi. Sono 20 minuti in cui ci ha dato delle notizie, dunque non mi rompere i coglioni. Avrei voluto parlare più volte della questione legale interna al Partito Democratico questa settimana. Della questione, scusa? La questione legale all'interno del Partito. Sì, guarda, è un argomento appassionante. Ma, siccome venerdì, con il beneplacito di Parenzo, io parlerei di polluzioni notturne. Di polluzioni notturne, vai, vai, sì, vai pure. Sì. Se la prossima volta che intervistate il vostro caro amico Ruggero, come si chiama? Ruggero. Del Sacrum Romanum Imperium. Sì, sì, l'uomo, il più omofobo d'Italia. Come gestisce dal punto di vista etico-morale le polluzioni notturne che inevitabilmente avrà dedicandosi all'astinenza perpetua? Sarà una questione morale? Ma perché tu ci credi che non si sia mai masturbato, comunque non abbia fatto sesso a 58 anni? Ma non lo so, però mi interesserebbe sapere come gestisce le polluzioni notturne interiore. Dal punto di vista tu dici anche della delle scritture, delle sacre scritture, no? Sì, le polluzioni notturne. Benissimo, io lo chiederò Francesco. Volevo segnalarvi una canzone di un filosofo epicureo moderno salernitano, sì. Marziano. La canzone si chiama Il Macchione ed è dedicata proprio alle polluzioni notturne. Ma come fa? Se qualche ascoltatore vuole approfondire su Spotify, da YouTube l'hanno ritirata. Com'è Il Macchione? Il Macchione. Ma di chi è questo professore autorevole che ha scritto questa canzone? Marziano. Gianfranco, sì. Marziano, un moderno filosofo epicureo. Fate ottimo. Delle ricerche approfondite. È bene, un mito. Bene, grazie, Francesco. Ciao. Carlo da Pisa, vai. Pronto? Eccolo. Sì. Eccomi qua. Allora? Allora, io volevo parlare con lei, sì, di squisire sulla, sì, felicità delle donne. Sì. Come spesso parla di rapporto uomo-donna, sì, però sempre indirizzato alla felicità dell'uomo. Beh, no, per niente, perché? Sì, sì. Allora? Io sono una persona indirizzata felicemente alla terza età, che per quasi tutta la vita ho dedicato gran parte di me stesso alla felicità delle donne. Che vuol dire? Sia per quanto riguarda il mio lavoro, sì, e anche per il resto, sempre indirizzato alle donne. Ma che vuol dire? Hai passato tutta la vita a rendere felici le donne? Come professione? Anche come professore. E che facevi, scusa, gigolo? Che facevi? No, cosa facevo? Faccio gioielliere, quindi. E allora? Però ho sempre dedicato, sì, tutti i miei intenti a far star bene le donne. Vabbè, questo l'abbiamo capito. Dunque? Dunque, per me, sì, il discorso principale è che, allora, il piacere della donna bisogna, sì, coltivarlo. Sì, d'accordo, bene. perché la donna sì, Carlo, però qui dobbiamo dare anche una certa velocità, altrimenti, appunto, velocità. Altrimenti dormiamo, sì, mi dispiace. No, io non voglio dormire. No, ma invece io mi sto addormentando, però, amico mio. È un problema questo. Ho capito, abbiamo metta un po' di Viagra nella sua conversazione. Esatto, io ho capito benissimo che lei ha passato tutta la vita a rendere felici le donne, non so in quanto se come amatore, se come gioielliere. Come amatore. Anche amatore, ma amatore in che senso? Soprattutto come amatore in che senso? Che ha scopato tanto, nel senso che ha reso felici le sue amanti, la sua moglie. Ho reso felice la mia amante. Perché? Ma in che modo? Guadagnandoci, ha fatto gigolo, si faceva pagare. Io faccio pagare, io sono un gioielliere, quindi si figura in posto. È un gioielliere, ho bisogno di soldi. Un gioielliere che amante delle donne. Benissimo. Dopodiché? Dopodiché? Sì. Se lei o tu, come sì, vuoi. Sì. Fai mente locale pensando a come è fatta una donna, come è fatta una vagina. Carlo, la vagina non è altro che un muscolo. Io le chiedo scusa, professore. Non sono ancora riuscito a capire il senso di questa telefonata. Professore, a me va benissimo tutti questi argomenti. Mi stupisce che alle 20:40, alle 19:40 qualcosa, lei decide di prendere il telefono e di parlarci di questa. Ci ha chiamato. Guarda, io sto parlando. Ma perché con Cruciale? Perché lei per me vorrei sapere lei il suo contratto. Il suo contratto, io non credo. No. Che sia fatto a pronto. Un tanto all'ora, lei è fatto a un tanto a vaffanculo, più vaffanculo gli danno almeno e più lei guadagna. E almeno lei si è svegliato. Appunto? Capito? Benissimo, almeno abbiamo ottenuto il risultato. L'abbiamo svegliato. Non è altro che cacca. L'abbiamo svegliato. L'abbiamo svegliato. Si è svegliato. Allora, dopo averci dato il suo contributo prezioso sulle grandezze delle vagine, cioè contributo prezioso, non ci sono grandezze. Un contributo talmente prezioso, talmente alto e prezioso, che ci stavamo entrambi addormentando. Quindi grazie. Ma lei non c'è mica bisogno di parlare di vagina per addormentare. Lei è sempre addormentato. Torni nella sua spelonca. Grazie. No, la spelonca, addirittura è spelonca. Giovane, io la spelonca, sai dove gliela metto? Dove lei guadagna, cioè nel culo. Ma perché guadagna? Scusa, vedi che lui guadagna ogni vaffanculo che gli danno. Vedi questa che lui ha un tot. Beh, sarei miliardario a questo punto. Appunto, come tutti gli ebrei. È miliardario. Ora pure, capito, pure questo. Sì. Sa quant'è che ho a che fare con gli ebrei? Io non ho capito, ma lei forse ha sbagliato radio, lei voleva chiamare a radio idiota. Dopo aver comprato Brillanti, mi fa male il culo. Capito? Io non voglio parlare con lei. Non lo so, non ho capito, chi è che fa male il culo? A chi fa male il culo? Dare un contributo alle donne e soprattutto agli uomini. Ma quale contributo, di cosa? Ma perché chiama la radio della Confindustria poi, scusa? Ma che c'entra adesso, sei fissato con sta roba? Ma che frega questo? La Confindustria, ci sto meglio che lei. Bene, che io tutta non credo. Sono 40 anni che faccio parte della Confindustria. Non lo dica così ad alta voce, però, la prego. Arrivederci, Carlo, ciao. Non lo dica. Contro il padiglione Italia. L'Expo mi piace soprattutto il padiglione Italia, che ho definito in maniera molto efficace una scorreggia fritta. Vittorio! È più o meno questo stile qui. No, Vittorio! Questo stile è pieno di aria, sai come è fatto una scorreggia fritta? No, non l'ho vista. È piena di aria, sì. Cioè non è solida, non è come uno stronzo, è una cosa. Allora. Allora, abbiamo con noi, credo, in diretta dalla sua casa in campagna, Giuliano Ferrara. Ciao Giuliano, buonasera. Eccomi, sono qua, come va? Beh, che dici? Sono qua con Rina. Come con Rina? Rina, così Rina, Bagarella. Ma come con Rina e Bagarella? Quindi sono... hanno scoperto che l'immigrato, sì, l'immigrato vale un euro immigrato. Sì, sì. Allora, per capire la proporzione della cosa, basta che vi fate un conto. Cioè, se ci sono un milione di immigrati, insomma, loro guadagnano un milione di euro. Sì. Fate salve le spese, naturalmente. Cioè, robetta, dici. Ma non so, mi sembra un business della mafia. Cioè, nonostante tutti questi, tutta questa nuova ondata di arresti, le connessioni. Ma è sempre la stessa cosa. Tu dici che parlare di mafia è una puttanata. Dice un grosso appalto per mezza dozzina di appartamenti a sette camini. Oppure una raccomandazione per l'assunzione di un facchino a Roma 3. Insomma, delle cose da ridere. Roma da tracciaculi. Cioè, sì, è proprio. Tracciaculi, naturalmente Roma è corrotta, questo si sa, diciamo, basta aver fatto un po' di letture classiche, è corrotta da sempre, Roma è corrottissima, ma non è, i soldi veri stanno da un'altra parte, quelli che se li mangiano stanno da un'altra parte. E questi chi sono? Nord. E questi chi sono? E questi sono dei Moretti, dei cravattari, sono una cosa ridicola, sono i padrini del Trastevere, sono della gente che va lì, 5.000, 2.000, 10.000, che sono certo cifre imponenti per il cittadino che guarda e si scandalizza, ma è piccola corruzione. Io non sto dicendo che non... quando vedo Marino che dice devono andare in galera e bisogna buttare via la chiave, io non ridisco. Come buttare via la chiave? Quello era col Cardinal Martini, ha fatto sempre il medico cattolico buono che cerca di capire i problemi dell'umanità, ma come buttare via la chiave? Ma la chiave si butta via per gli assassini seriali, cioè si butta via per il capo di gabinetto per Rina, appunto, dici, non per Odeven, non per Buzzi, ma non per i vice capo gabinetto. Quelli devono avere una condanna commisurata, proporzionata al loro reato, e per basta. Cui parlare di mafia capitale, cioè utilizzare questa espressione è una cosa ridicola. E farci i libri sopra pure. Ci fanno i libri sopra. No, l'hanno fatti prima. Cioè, prima i PM scrivono i romanzi, romanzo criminale. Sì. Poi il procuratore capo va al convegno del PD e dice: ah, tra qualche settimana verrà una grave inchiesta, vedrete, vedrete, ne vedremo delle belle. Poi fanno la prima rata dell'inchiesta, poi fanno l'arresto di Carminati a vantaggio di telecamera, come se fosse Francis Ford Coppola. Ma insomma, ma io no. E poi mi querelano pure. Ma come mi querelano? Chi ti ha querelato? Come ti querelano? Cosoli, Tescaroli. Perché poi questi magistrati sono tutti, non ce n'è uno romano neanche a cercarlo con l'antenna. Vabbè, ma che c'entra? Non capiscono le intercettazioni, non capiscono che tipo è questo Buzzi. Cioè, non capiscono. Ma te pare che un mafioso, un boss mafioso, dice a un altro, dice a 13. Tu o fai il presidente del consiglio o vai in galera, e quello dice: come potrei essere arrestato? Fa 13, e quello gli risponde: ma rimortacci, tu puoi essere arrestato. Cioè, sono gente consapevole del fatto che sta facendo la cresta sulla spesa pubblica assistenziale e solidale. Non sono mafiosi, i mafiosi sono un'altra cosa. Cioè, tu dici: sono consapevoli che stanno facendo la cresta sui soldi pubblici, certo, dato per l'assistenza, se ne fottono quasi di essere intercettati, diciamo. Ma sì, qui ha detto, dice: io sto tre mesi a Regina Celi, ma la fumo. Dopodiché invece sta da parecchi mesi a Badu e Carros. Cioè, anche il fatto che stanno a 41 bis è una follia, secondo te? Ma come una follia? Una cosa, diciamo, è la fine dello Stato di diritto. Per fare un'inchiestina da quattro soldi e per poter intercettare tutti e per poter, come al solito, sputtanare la politica, che cosa hanno fatto? Hanno applicato il 41 bis... fingendo che ci siano gli arsenali, hanno trovato un coltellino giapponese per tagliare il pesce, fingendo che questi siano chissà che cosa, invece della gente che sta su una panchina in un come si dice, da un benzinaio, stavano al bar là, Vigna Stelluti, sì, ma appunto sono delle cose ridicole. Assolutamente ridicole. No. Io poi ho il massimo rispetto per Pignatone, per Tescaroli, per Ghelo. Ma tu, quando è che ti ha querelato? Quando? Però, ma è querelato, querelano sempre. Ma ti ha querelato perché? Come cosa... Davigo, per una serena vecchiaia, adorano chiedere ad altri magistrati di far pagare i giornalisti per le cose che dicono. Sì. Cioè, hai detto che questo. Hai detto i Tescaroli, che è uno stracciaculo, che no, stracciaculo no, però insomma mi sono espresso in modo molto molto poco riverente, come adesso. Insomma, dico che sono fregnacce. Se uno dice che sono fregnacce di indagini giudiziarie, ma naturalmente argomentando, no, mica dico che devono con me devono rinviandi. Come? Con animo, spugnandi, dico. Bravo, e la Cassazione considera l'animo spugnandi una che cosa già ti hanno condannato, no? No, non mi hanno condannato. Ah, ti hanno solo condannato, vabbè, a voglia, perché... per carità, eccetera. Vabbè, comunque... Fanno in tempo a fare Santo Carminati prima che mi condannassero. Senti, ma invece un'altra cosa ti volevo chiedere. Questa cosa di De Luca, no? Tu adori De Luca o no? Ti piace o no? Vabbè, De Luca non vorrei neanche parlarne, per me come... è come... come un fratello. È come Venere, come Marte, Saturno, è nell'iperuraneo. Uno che Mattia Feltri sulla stampa ha raccolto, antologizzato i giudizi di De Luca. Sì, stupendo. Ma una cosa da morire. Ha detto, dice, ma Casaleggio, dice, ma uno che ha 50 anni ancora si fa la permanente può compiere qualsiasi delitto. De Luca è un grande letterato per me. Sì, no, ma mi pare, che l'hanno votato, no? Sì, vabbè, ho capito, però non è che uno, questo PD, prima fa le leggi da Severino e dopodiché adesso è in imbarazzo perché non sanno che fare. È una follia pure questa, o no? Sì, certo che è una follia. La Severino, diciamo, e la follia sono sinonimi. Ho capito, però non la Severino lei, la Severino legge. Ho capito che vanno a braccetto, però anche Berlusconi, come dire, ha dato un contributo alla Severino, forse inconsapevolmente. Ma è questo, è per questa stessa ragione per cui fanno Mafia Capitale. Bisogna dare, gettare al popolo delle brioche o delle ossa belle levigate. Oppure più carnose. Allora una volta è Mafia Capitale, una volta la Severino, una volta l'aumento delle pene, una volta capito? Insomma, bisogna semplicemente fare questa demagogia bestiale e quindi su questa strada si fanno molti ma errori. Se ne deve fottere De Luca se ne deve fottere della questione della Severino? No, De Luca c'ha una vecchia cosa in prescrizione, che ha rinunciato lui alla prescrizione per concussione perché ha fatto delle cose e chi non fa le cose non sì, 17 non critica, anni fa, 17 anni fa, infatti. 17 anni fa. E poi c'ha il fatto di avere scritto project financing invece che coordinatore tecnico dei lavori. Ma che uno si deve dire? Ma uno il popolo deve essere preso a schiaffi in faccia per una ragione di questo genere. Questo sarebbe l'abuso. E dunque deve andare avanti come un carro armato. Ma certo, dovrebbero mandargli i carabinieri e fargli fare il presidente, Severino non Severino. A tra poco, giornale radio. La Zanzara. Eccoci qui, siamo con Giuliano Ferrara. Vi faccio ascoltare un po' di robe dette da De Luca questa mattina. Per esempio, sulla Bindi, Rosaria detta vezzosamente Rosi. Non c'è nessuna rissa di nessun tipo, c'è l'onorevole Rosaria Bindi, detta vezzosamente Rosi, che ha ritenuto di adoperare espressioni che vanno al di là delle sue competenze. Poi ha detto che dovrà ringoiare tutte le parole dette, meraviglioso. A soprassedere vista la vittoria? No. Perché per me non conta l'aver vinto o non aver vinto, conta far ringoiare cose ignobili che sono state dette. Poi sui grillini che hanno presentato il ricorso subito perché contro l'insediamento di De Luca, ha detto una cosa divertente De Luca, ha detto sulla lapide, senti. È una specie di circo equestre, ognuno si alza la mattina e dice quello che diavolo vuole. C'è in particolare una componente politica, quella dei grillini, che è specializzata nella presentazione di ricorsi. Ecco, sulla loro lapide metteremo presentarono 1000 ricorsi. Perché Giuliano, perché non lo facciamo governatore d'Italia? Se... Magari, ma invece secondo me deve stare attento perché adesso appunto siccome ha vinto la carognaggine dei suoi avversari. Arcinemici sarà ancora maggiore. Però è meglio di Renzi, sembra più deciso di Renzi addirittura. Cioè... Vabbè, è un altro stile, Renzi, lo stile Boy Scout, rinnovamento generazionale, Leopolda, Baricco, che c'entra. Ho capito, è un altro stile, più deciso mi sembra, Sì, vabbè, però è anche un vecchio comunista, quindi cosa vuoi che abbia uno stile? Cioè, per cui è più vicino a te, diciamo, come carattere. Ma no, io non sono poi così, guarda, io sono un pensionato, sto qui. c'ho il Bosco davanti. Vabbè, quindi, però sempre, sempre comunista sei stato pure te in quel senso. Va bene, ma sono un tipo molto più morbido. Dicono tutti è intelligente ma è cattivo. Invece io sono buono e magari un po' stupido. Ah, tu dici, ribaltiamo la cosa, un pochino stupido, non intelligente ma un pochino stupido, non tanto, non tanto però buono, buono, accomodante, tondo. No, sul fatto che sei tondo, rotondo invece di aguzzo, quello posso convenire. Potevi testimoniare, ma poi Parenzo, tu non lo so, ma Parenzo che uno come me, uno della sinistra romana, della razza. Perché, per cui gli inciuci ti piacciono pure a te, un po' di mazzette a Roma, questa romanità. Con Parenzo ci siamo visti alla festa di un amico, allo Carno. No, ma poi vedi inciucci. Ma cosa vuol dire inciucci? No, ma ragazzi, ma scusa, ma se sono mangiati tutta Roma questi qua. Dai, su. Ma usi questo linguaggio inciucci come fosse un grillino, un grillino qualunque. Ma uno diceva se resta Marino ci mangiamo Roma. Ma scusa, ma scusa, hanno pure. Posso dire una cosa, hanno pure detto di quel povero Alemanno, che certo non è stato un sindaco brillante, né un ideale leader, meglio De Luca, hanno detto che Alemanno ha preso i voti dall'Andrangheta, ma me le ricordo io negli anni 70 alle riunioni del Partito Comunista a Torino per le elezioni comunali, si faceva la riunione col popolo pugliese, la riunione con la famiglia calabrese, ma è sempre stato così, e quelli del sud, e quelli del sud si insediano al nord, hanno delle relazioni diciamo... Dipende, si insediano centriche partiti cercano i voti, no? Però ci sono pure i mafiosi poi dove? Ma mica siamo a Gioia Tauro, ma che Alemanno l'hanno votato la famiglia Pesce, ma che siamo umani? Vabbè, ma ci sono le diramazioni dell'Andrangheta anche nelle grandi città, non è che non ci sono, ci ma sono. Ci daranno le diramazioni dell'Andrangheta, ma in genere stanno vicini ai consigli d'amministrazione dei posti dove veramente si fanno grandi affari. Al nord, a Roma grandi affari si fanno al nord, a Roma è roba da poveracci. Sette Camini è roba da poracci. Roba. Cioè, quando uno come Buzzi dice: se resta... la parola stessa, Sette Camini. Adesso, poveracci, questi dei Sette Camini. Se resta Marino, ci mangiamo Roma. Così diceva il signor Buzzi. Sì, sarà vabbè, ma è la tipica frase di un non mafioso, no? Cioè, quando uno dice: se resta Marino, se mangiamo Roma. No, dice. Marino, poi non ne parliamo proprio. Marino, ma scusate, cioè, in che senso? Serasa oggi mi ha dato un suggerimento che vorrei rilanciare. Sì, ha detto, dice, scusa Giuliano, ma allora perché non sciolgono il consiglio comunale? Beh, quello infatti ma qualcuno vorrebbe. Ma se credono che è la mafia devono scioglierlo, no? Hanno fatto 80 arresti. Ma qualcuno dice... tu dici, ma è il governo che lo deve sciogliere, però, come sai, il consiglio comunale? Certo, il governo deve sciogliere il consiglio comunale, il ministro dell'interno. Ma loro allora sono obbligati. Ma io vorrei che lo sciogliessero il consiglio comunale. Perché? Perché a questo punto... deve esplodere lo scandalo di un'accusa di mafia proditoria, irrisibile. Sì. Che produce addirittura, insomma, come dire. Beh, tu lo dici tu lo dici provocatoriamente, ma non vorresti che fosse sciolto per mafia il Comune di Roma? Ma no, ma figurati. Quelli del New York Times dicono in Italia non funziona niente a partire da capitale. E poi è scoppiato uno scandalo di questo Sheldon Anderson nel New York State. Sì. Stato tutto il Senato imbrigliato, tutto il Partito Democratico, tutti corrotti. Ma mica c'è solo da noi la corruzione. Ma no, ma certo. Senti, invece, Parenzo, mi faceva notare che Salvini oggi si è presentato dai giovani industriali. No, guarda, su Salvini devo dire una cosa in più. Veramente è un paraculo, una roba incredibile. Io sono qui, Giuliano, a Santa Margherita, al congresso dei giovani industriali. E a fare una marchetta, no? Come al solito. No, nessuna marchetta. Vabbè, comunque, ma non sono mica della Camorra, sono dai giovani della Confindustria. Vabbè, allora... proprio grillino nell'animo sei. Arriva questo Salvini vestito con una giacca, una camicia bianca, in modo anche civile, niente bava alla bocca, niente sudore, prova a sedersi e balbetta due o tre stronzate sulla uscita dall'euro. Questi ovviamente che sono seri lo guardano come dire, amico mio, cioè, di cosa stai parlando? Hai parcheggiato la rupera? Lui provava a fare lo statista. Esce da qui, si toglie la giacca, mette la solita maglietta con segnale autostradale Viareggio, perché adesso è andato a Viareggio. Vabbè, allora? E ha continuato a sbraitare sui rom. Quando ma qui non è alla bene, è andato a parlare di altre cose. Sì, Viareggio, quando qui la Confindustria ha detto no, i rom Salvini non sbraita, sono... sbraita perché è un insigne grammatico. Lui si deve chiamare Salvinando, gerundio. È un insigne grammaticus. Immagino che questa gaffa abbia aumentato la tua stima per Salvini, Beh, vabbè, non ne parliamo. Io poi lo trovo un parvenu. Mentre Landini, che è un altro matto, è elegante. Mi dispiace perché c'è. No, ma c'è quella. Ce l'ho anch'io ogni tanto, per trascuratezza, la maglietta della salute. Ma è una cosa terribile, terribile, terribile. Ecco, che si vede dal triangolino della camicia. Sì, sì. È terribile, però noi snob possiamo permettere. Cioè, Salvini in fondo è uno snob emiliano. Invece quello lì è un parvenu, è un fashion victim, che ho detto. Hai detto, ah, beh, sì, Landini, sì. E quello lì invece è un fashion victim. Ma scusa, ma come, fa, come fanno? Le felpe, si mette le felpe. Ma come fa a non piacerti il nuovo capo della Devor? Com'è il nuovo capo? Detta lui l'agenda su tutto. Cioè, ormai si rimagna tutti, uno per uno, Berlusconi, pure Toti, se lo magnerà, gli imporrà le sue. Già Toti è diventato leghista, in Ligure dice no agli immigrati, no, no ai Rom, no, basta campi Rom. Io Toti lo vedo molto bene come leader. Sì, addirittura? Sì, Toti è molto bravo. Sì, ma lo stai dicendo per scherzo o no? No, lo dico così, insomma, è un è una promessa, una giovane promessa, no, ecco, sai com'è, come sì, diceva Barbarino, no, che tutti quanti nascono giovani promesse e poi diventano il solito stronzo e poi il venerato maestro. Prima di arrivare al venerato maestro c'è quella fase, Toti la dovrà, diciamo, non lo passare, però lo vedi bene. Per, adesso, per adesso è una. Ma che c'hai, con Salvini? Che non, io non capisco. Questo qua dovresti essere uno che prende è un tutti. Cazzone, è un cazzone, uno che piglia voti sparacchiando qua e là. È uno scorreggione, certo. Non è uno normale. Scusa, ma la gente deve darsi. Ma insomma, il popolo, il valoroso popolo greco, non vuole l'uscita dall'euro. Va bene? Allora Salvini la deve piantare, lui è Grillo, di rompere le scatole con l'euro. Noi vogliamo l'euro. Vabbè, perché lui si valuta la moneta, portiamo tutti i soldi all'estero, ma noi tutti. Ma non li vuole, ma lui lo dice così, ma in realtà la sua battaglia è sull'immigrazione. I voti li piglia non sull'euro, che non gli frega un cazzo a nessuno. Sull'immigrazione un euro è immigrato. Beh, sull'immigrazione e sui rom. Ma prende voti, ma non ci fa niente, sono voti del cavolo, come i voti di Grillo. Ma come? Voti... Governa sono due regioni, Bernacchi, governa due spiriti. Regioni, governa due sono regioni Bernacchi. Italiane. Ma no, ma che governa? Sì, quello, Maroni, quello è Zaia che si è Maroni, Maroni, come si è visto, con metodi pornografici e voyeuristici, altro da fare che stare appresso a Salvini, Maroni. E l'altro, Zaia, è un uomo di potere superbo, io sono stato lì, ho visto la sanità, le cose. C'è tutto tranne bravo. Che salviniano, tutto tranne è che salviniano. È uno bravo, è uno che sa governare, d'altra parte il Veneto è così, non è che lì devi essere una persona seria, se no non te reggo. Ho capito, dunque tu no, dici... ma infatti la dimostrazione ho capito, che ma quello Grillo serve che Salvini in quello... Veneto non ci sono mai andati praticamente, infatti e questa è la dimostrazione, cioè ragazzi, che Grillo, però... i grillini vincono perché Grillo per fortuna non ha fatto Salvini un cazzo, è cioè... bravo, va in televisione, ha trasformato la Lega che era ridotta al 3%, bravo, questo arriva Giuliano Ferrara e dice che è un cazzone, uno scorreggione, dai, ma su, no, ma che vuol dire? Ma è così, è ma così, ma tu dovresti essere affascinato dal potere, da quello, da uno che arriva dal basso. Ma quale potere? Ma potere dove? Che cosa? Era il cocco di Gad Lerner, stava in consiglio comunale a Milano. Ma come il cocco di Gad Lerner? Fatto... Sì, come no? Che non lo sapete che era il cocco di Gad Lerner? Ma come il cocco Gad Lerner di... diceva sempre la Lega perché Bossi è cattivo, secessionista, antirepubblicano, invece Salvini è bravo, è un'espressione di tutto, ma non è secessionista. Cioè da cocco di Salvini, da cocco di Salvini, da cocco di Gad Lerner, di Salvini, sì, di Gad Lerner a cosa, vabbè, comunque ti faccio sentire. Ma non l'avete mai beccata questa? Guarda, chiamate Lerner, chiedetegli un giudizio. Cioè è lui che l'ha fatto, sì, è vero, lo invitava spesso nelle sue trasmissioni, è una creatura di Lerner. Ma adesso dice che è un nazifascista, lo massacra, vabbè, il gioco, vabbè, che c'entra, perché ormai il giovane, è diventato il giovane, si evolve. Vabbè, ti faccio sentire un'ultima cosa prima di lasciarti, però Busi, signor Busi ieri sera, beh, amico mio, Busi è stupendo, Busi ieri sera. Il fatto dello scoppio demografico, io è da 20 anni che quando vado nelle piazze, la prima cosa che dico, lo dicevo pure donne, questo, fate come me, per i prossimi 20 anni andate di culo, perché basta, siamo in troppi, e loro applaudono e sono felici. Ancora, sarei stato felice di essere adottato da gay, sentite. Io sarei stato felicissimo di essere adottato da due gay, una lesbica, un prete, una perpetua, una troia, perché ci sono delle troie affettuose. Insomma, sai, il monsignore non apprezza questi termini. Non voglio solo te delle troie che vengono a confessarsi, ce l'abbiamo un po'. Che disgrazia. Il pensiero... No, poi c'era Monsignor Sigalini che ha detto una cosa incredibile sui gay, sul 90% che sono stati violentati, una cosa pazzesca, Monsignor Sigalini. Lei ritiene queste teorie riparative, queste cure nei confronti degli omosessuali che vengono anche nella sua chiesa utili? Io le chiamo cure, teorie riparative. E come le chiama? Elaborazione del proprio vissuto per vedere qual è la vera causa, la vera natura di questo modo di vivere. E nella allora, sua esperienza cosa trova? Esperienza quali sono le cause? Lì l'hanno disprezzata tutti, ma io lo trovo, moltissimi ragazzi sono stati violentati, almeno il 90% di quelli che conosco io. Vabbè Giuliana, questo sta fuori di testa, però sto mozzicando. Fuori di testa completo. La Chiesa si deve decidere, insomma, perché non è possibile, non può oscillare tra chi sono io per giudicare e stare in esatto. Non è possibile. Ma questo monsignore, non so dove è, cioè, che ha detto che il 90% di gay che ha conosciuto lui sono gay perché sono stati violentati quando erano. Ma è una cosa ridicola, si sa dai tempi male. Dei tempi che il corpo maschile piace come quello femminile e ci sono ibridazioni. Poi dopo la gente diventa un po' normale, matura, eccetera, si sposa, fa figli, consolida un patrimonio e propaga la specie. Ma che dobbiamo ripartire sempre da zero? Ho capito, però questo è un monsignore. È un bel regbista, a Busi piace un sacco d'altra gente. Però Busi è come te, è contro il matrimonio, Busi è contro il matrimonio gay, assolutamente. È contro il matrimonio sì, gay. Sì, è contro il matrimonio gay. Le sue sono licenze poetiche di un uomo intelligente. Però, dice anche una cosa, dice che, non Busi, non mi ricordo chi l'ha scritto tempo fa sul Corriere della Sera, qualche giorno fa, cioè che i gay che vogliono il matrimonio vanno contro la loro natura quasi, io sono contrario a questa cosa, sono a favore del matrimonio e dell'adozione, perché sono meno rivoluzionari, cioè tradiscono se stessi, io questa è una cosa. Ma lì si fa un antiretorica, no? Si dice ma se sei gay devi essere trasgressivo, non puoi tradire. Sì. Ecco, vabbè, non lo so, non voglio entrare nel merito di questa questione perché le licenze poetiche se le può permettere Busi con uno scrittore. Io mi permetto di dire una sola cosa da sempre, sempre la stessa. Non vogliono sposarsi. C'è una grande campagna internazionale che non è neanche una campagna cospirativa, è una tendenza della cultura contemporanea a distruggere il matrimonio. La storia è cominciata col divorzio, è cominciata col fatto di rendere il matrimonio un matrimonio seriale. Sarei pure contro il divorzio. Certo. Ma come si fa a essere contro il divorzio, Giuliano? Contro il divorzio. Contro il divorzio, perché penso che il contrario del matrimonio non è il divorzio, è il non matrimonio, stronzo, non ti sposare. Ti sposi basta. Ma come basta? Basta! E vuoi tre matrimoni, quattro matrimoni, ma certo, cinque matrimoni, è l'esaltazione. 32 aborti. L'ho detto già l'altra volta la zanzara. Pippe, l'hai detto, Pippe, d'accordo, l'hai detto. Non è mica aspettato Busi. No, ma ho capito, questo d'accordo, ma io non capisco questa cosa del matrimonio, del divorzio breve, cioè non la capisco. Ma perché? Ma come divorzio breve? Né breve né lungo, il divorzio è niente, nisba. Sei sposato, hai fatto la cazzata, hai fatto la promessa e resta sposato. No, adesso gli vogliamo dare pure l'osso. Una cosa pazzesca. È una cosa incredibile. È una cosa ridicola. Ma che chiedi a Parenzo che è d'accordo con me. No, scusa, su questo non mi dire, posso, ma non, assolo, io non sono per io sono per il divorzio dopo un giorno. Dopo un giorno uno si può divorziare e vaffanculo. Ma lo so, ma tu sei un liberista sfrenato. No, poi ma ti pare normale che ci sono quelle associazioni siamo contro in epoca, siamo in epoca, come dice Francesco Merlo, di keynesismo criminale ma ti pare normale adesso che questi delle associazioni contro l'aborto. Luciani, Giuliano è vittima di un'altra cosa, di quello che io chiamo il fordismo sessuale. Ma che c'entra? Quello è un altro discorso. Vabbè. È un'altra cosa, il fordismo. No, scusa, Giuliano, adesso bisogna chiarire una cosa. Cerchiamo di essere seri. Ma ti pare normale che a Bologna. Il mondo è fatto di comportamenti liberi e di istituzioni. I comportamenti liberi vanno naturalmente, come dite voi, liberisti senati, implementati. Cioè, la gente deve essere. Però tu dici le istituzioni però le istituzioni sono sacre e quando tant'è vero che quando tu poi invece distruggi le istituzioni non è che le cose vadano così bene. Vabbè, ma il matrimonio è una noia mortale. Nessuno il matrimonio il terzo matrimonio è una noia mortale, ma io non mi sposerei mai, che c'entra, però ci deve essere la possibilità di farlo, l'esaltazione del matrimonio. Tanto l'ultima cosa, ma ti pare normale che ci sono gruppi di abortisti che vogliono andare a Bologna con dei feti davanti agli ospedali? Ma come è normale quello è il diritto basico alla manifestazione, di parola, il diritto di libertà, sì, ma con le foto dei feti, con le davanti foto a un ospedale, davanti a un ospedale, con le foto dei feti uccisi, perché nell'ospedale cosa si celebra? Ma con queste donne che già all'ospedale si annientano i bambini nel seno delle madri, quindi quelli sono scandalizzati, vanno lì e pregano. Vabbè, sì, d'accordo. Mica hanno detto che vanno lì a ammazzare i medici che fanno l'aborto, come è successo in qualche paese. Sì, questo è vero, ci deve essere il diritto pure di andare là davanti a dire la loro. Uno può pregare. No, questo è vero. Ma non devono pregare davanti a un ospedale. No, questo è vero. Se fai una manifestazione per il lavoro vai davanti a. No, questo è vero. Il prefetto che vuole vietare questa manifestazione lo trovo una cosa ridicola, devo dire la verità. Dai, è vero che è un po' una provocazione, però vabbè, è giusto così. Vabbè, certo, è una cosa piuttosto forte, vabbè. Radicale, perché ogni volta che si parla dell'aborto è un casino. Ciao Giuliana, a presto, ciao. Ciao. Anzi, mi segnalano che c'è una vecchia conoscenza della Zanzara. Te lo ricordi il Vichingo, Parenzo? Il Vichingo. Ma come no? Ma c'è, che si è candidato anche alle elezioni da qualche parte. Beh, mi dico, Vichingo praticamente sostiene quello anche che dava lezioni, come si chiama? Di... Sì, la Cucca Dance, sì. La Cucca Dance. Certo. La Cucca Dance, il signor Vichingo. Io sono capace di passare da Giuliano Ferrara al Vichingo. No, no, ma non è questo il problema. A Davide il Vichingo. Signor Davide Vichingo. Rimetti un attimo quella canzoncina lì che mi ricorda. Aspetta, ecco, ecco. Il personaggio. Cuccare e non cuccare, tempo di versare, istinto naturale. Te lo ricordi? Maschio nazionale. Come? Cuccare, non cuccare, cuccare, non cuccare. Allora, è completamente impazzito da un po' di tempo, per questo che non lo chiamiamo più. Amico mio, non da un po' di tempo. Non sì, già da io prima. Io direi dalla nascita. È quasi progressivamente impazzito. Tra l'altro sai che sostiene di essere lontano parente di Mussolini, no? Sì, signor Davide Vichingo, Davide Vichingo. Allora, senti che questo cosa... non mi stupirebbe. No, ma senti che cosa ha detto su Mafia Capitale. Ma l'ha detto in rima, cantando, che ha fatto? Sì, interviene anche... Non so, sentiamo. Ma interviene tu, ma non lo so. Quale contesto? Non lo so, su internet, sulla pagina Facebook. Ah, aspetta, aspetta. No, perché andiamo alla fine di tutto. Io non so come dirlo. Sogno sempre di sodomizzare dei maschi. Sì, di incurarli. Dopo i fatti di Mafia Capitale, penso di essere diventato omosessuale. E poi ci spiega perché. Ma come si fa? Come si fa? Dopo i fatti di Mafia Capitale, io dico che chiunque pubblicamente sostiene che l'immigrazione è una ricchezza per l'Italia, o peggio, che l'accoglienza è fatta per un senso di amore, io dico che questi sono figli di puttana. E dico che tutti i maschi di razza bianca, sopra i 21 anni, che diranno questo pubblicamente, io mi segnerò i nomi e cognomi e giuro un domani di sodomizzarli duramente. Di sodomizzarli duramente. Io credo che sia giunta l'ora anche per lui, come per Di Pre, come per Di Pre. No, che dici, Parenzo? Che dici? No, di chiudere un capitolo triste di una storia. Chiudere la Claire, dai, abbassare. Sì, sicuramente su un'esistenza non inutile, perché nessuno è no, però, insomma, inutile. dai. Però, ma non capisco anche di, non l'ha intervistato Barisoni su Mafia Capitale? No, che Barisoni? No, chiedo, chi è che l'ha intervistato? Mi piace virile. Ma non lo so, era un suo intervento. Comunque, Elver da Modena, vai, Elver. Che nome è Elver? Non lo so, Elver. Elver, buonasera. Buonasera. Niente, vai. Vi volevo il colmo della polizia. Cercare due rom per 5 giorni e dopo 2 giorni il magistrato mollarli. Fantastico. Favoloro, che merde che sono. Mamma mia. Ma merde chi? Ma chi? Ma guarda, merde i rom e le tamai, i magistrati. Il problema è che i magistrati dicono... è la legge che lo dice, come può dire i vitalizi, è la legge, come può dire Mafia Capitale, tanto la legge non ci fa niente. Allora, il problema? Io non ho capito chi è una merda, non ho capito, Elber. La merda, in primis sono i rom, sì, sono delle merda. Sì, perché loro sfruttano chiaramente la legge a loro favore. Sì. Intanto loro girano con delle macchine senza assicurazioni, senza niente, e non gli fanno un peo, amico mio. Vabbè, ma questo, non gli fanno niente. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Allora, ma sono tutti delle merde i rom? No. Ma sono tutti delle merde i rom o no? No, sono tutti quanti. Ci saranno anche quelli che lavorano e quelli che pagano le tasse e quelli che fanno come devono fare. Allora, quando dici merda, a chi ti riferisci? Merde, dico quelli che... Praticamente quelli che fanno delle cazzate. Va bene, ho capito perfettamente. Dai. Va bene, Elver, ciao. Dario, provincia di Boandria, dov'è? Dario. Giuseppe, carissimo, buonasera. Dimmi, Dario, dimmi. Guarda, io ti voglio innanzitutto ringraziare. Sì, ma togli il viva voce, amico mio, dai, forza. Ho capito, ma non si sente niente, dai. Ti voglio ringraziare perché tu mi hai messo proprio l'idea. Amico, devi attaccarti al telefono, altrimenti non si sente. Non rinunciate a telefonare se dovete stare così. Dai, prendi questo cazzo di telefono e portalo in bocca. Niente, no, in bocca un'altra roba al massimo. Dario, però... prendi il telefono e attaccatelo alla bocca, sennò non si sente. Adesso si sente meglio. No, ma perché devi stare in viva voce? Dario? Senti. No, niente, vabbè, dopo me lo racconti, adesso lo richiamiamo, dai. Chi è? Dino? Ah, Dino Giarrusso, sì, Dino Giarrusso da ieri, grandissimo, ciao Dino. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao, bene, bene. Amico mio, amici miei. Dite, dimmi, dimmi caro, dimmi. No, anche Guccini potremmo chiamarlo. Perché dopo, c'entra Guccini? Che c'entra? Perché lui fa un'imitazione straordinaria di Guccini. Ma lui ha fatto una grande inchiesta su Mafia Capitale, dunque ci può raccontare due o tre cose. Dimmi, dimmi. Noi, noi facemmo questo pezzo dove andavano tutti quelli che hanno preso soldi in maniera, diciamo così, trasparente, cioè ufficiale, finanziamenti, sì, per le campagne elettorali, da Buzzi e le sue cooperative, da Buzzi e le sue cooperative, molti consiglieri comunali, quasi tutti legati al PD, ma anche Alemanno, sì, che prese tanti soldi, e anche la fondazione che allora era di Frattini, la fondazione De Gasperi, che poi adesso, sì, è... Ma che mi vuoi dire sulle parole di Orfini? Sulle... Io impazzisco per Orfini. Io divento pazzo, io devo essere ricoverato subito, cioè, divento come il vichingo prima, cioè, io sbrocco, ammetto che sbrocco. Cioè, uno a cui arrestano una buona parte di compagni di partito, sì, fa una conferenza, lui, attenzione, è stato messo commissario al partito di Roma per in teoria ripulirlo, sì, che cazzo abbia fatto, scusate la parola, fatto nell'ultimo anno, vorrei saperlo perché sono molto, molto curioso di capire cosa, sì, abbia concluso questo commissario. Beh, diciamo che una buona parte di pulizia l'avevano fatta i magistrati già, ecco, a un certo punto, ecco, di vista. Quindi comunque, lui, vabbè, non ha fatto un resto di un tiro. Comunque, detto questo, lui fa una conferenza stampa e dice: ah, è una mi viene da ridere, mi viene da ridere, è una mafia di destra. Sì, una mafia di destra, sì. B, questi sono fans dei 5 Stelle. Sì, ora, no, noi la prima cosa, aspetta, lascia perdere i 5 Stelle. La prima cosa ridico, perché lui dice le accuse di associazione a delinquere, eccetera, sono tutte per esponenti di destra, sono coinvolti. No, esponenti... il 416. Il 416. 416. Sì, vabbè, ecco, ho capito, ma che vuol, allora, dire? Cioè, Carminati... Allora, è pazzo o cosa? Cioè, è impazzito definitivamente questo signore? Ho troppe partite alla PlayStation, gli hanno fatto male o cosa? Cioè, se io sono stato iscritto al PD, l'unico partito di cui ho preso la tessera per un solo anno è il PD nel 2009. Ma come, se io fossi ancora iscritto, è perché ho fatto un errore nella vita. No, per un errore. No, nel senso, c'era la mozione Marino e speravo di pensate un po' come cambiano le cose. Vabbè. Se io fossi oggi un iscritto al PD, io non so, andrei da lui e gli proporrei se è il caso di sputarsi in faccia o meno. Adesso noi scherziamo, ma scherziamo fino a un certo punto. Cioè, tu, dopo quello che ha detto, gli sputeresti. Ma dovrebbe sputare in faccia lui da solo, caro David. Perché se no, uno. No, ma io non voglio difendere il PD, perché non voglio. No, ma Orfini. Ma Orfini ha fatto Orfini però è diventato commissario poco tempo fa. Ho capito, ma ha detto che la mafia capitale è di destra. Ha detto. Ma scusami, se l'è presa con i grillini. L'ottimo Giarrusso, che non è Giarrusso dei 5 Stelle. Non c'entra niente la Ruspa. No, l'ottimo Giarrusso, dico, che non è Giarrusso dei 5 Stelle, ma è il nostro ottimo Giarrusso. No, non siamo parenti. Meno male. In questo caso dice una, con tutto rispetto per le autorità politiche, civili e militari, dice una puttanata mega galattica. L'amico, perché Orfini che non voglio difendere, è arrivato dopo lo scandalo, quindi è chiaro che in queste settimane, questi due mesi, ma scusami, no, ma scusa un momento, però solo per ragionare, Orfini può avere tutto due mesi momento... No, perché ne sono passati sette, ma comunque, ma quelli che... No, ma poi nel merito può aver ragione Giarrusso, la questione è: la colpa è di Orfini? Risposta: ma chi ha detto la colpa di Orfini? No, lui dico, dice che cosa ha controllato Orfini, ma Orfini è arrivato un mese fa, che deve fare? Ma ha detto che, scusa, ha dato la colpa ai grillini perché hanno, perché qualche boss ha detto che gli piace Di Battista, gli piace Di Maio, no, manco ha fatto una battuta in stile 5 Stelle, perché no, non è una battuta, Davide, quella è una porcata. Allora, guardiamoci negli occhi, ragazzi, noi siamo, Scrugiani no, ma io e Parenzo sicuramente, tantissimi nostri amici e colleghi a cui vogliamo bene, siamo stati, certo, bene o male, elettori o militanti del centro-sinistra. Assolutamente. Allora, le cose da dire sono due. Io ho fatto una rubrica oggi su se volete ve la provo, anzi propongo una rubrica. Aspetta, però fermo. Se l'avesse fatto Berlusconi. Ma quello l'ho detto prima io, se l'avesse fatto Berlusconi, fermi tutti, ma guarda, se uno del PDL avesse avuto di Forza Italia, fosse stato nella stessa situazione, governatore della Campania e sindaco di Roma, ci sarebbero i roghi in piazza, questa è la realtà dei fatti, dai, per quello che è successo, giusto o sbagliato che sia. Allora, a proposito di Mafia Capitale Scandali, eravamo con la Iena Dino Giarrusso, molto incazzato per le parole di Orfini. Qual è la proposta che volevi fare se ci fosse Berlusconi? No, quella è una rubrica che proporrò. Cioè, com'è? Zara. se l'avesse fatto Berlusconi. Ma ci sarebbero, te l'ho detto, ci sarebbe Berlusconi. L'inferno. In Campania ci sarebbe la rivoluzione in piazza e a Roma. Faremmo una legge ad personam per De Luca, no? Perché per anni, giustamente, secondo me, io certo. Lavoro tanto per Mediaset, sono stato politicamente un anti-berlusconiano, non lo nego, non me ne vergogno, non ho fatto bene, credo di aver fatto bene, ma lavorano per Mediaset pure Benigni, Sorrentino, tanti, quindi mi sembra una polemica sciocca, però dobbiamo ammettere che se Berlusconi avesse fatto una cosa del genere, candidare un ineleggibile, ci sarebbe stato l'inferno, Repubblica in prima No, ma sarebbe stato costretto a non candidarlo, te lo dico io, cioè sarebbe stato costretto a non candidarlo. Dopodiché... Adesso parliamo di Roma per tre secondi. Sì, la responsabilità penale è personale, sì. Ma la responsabilità politica, amici miei, se il sindaco Marino nomina un assessore e poi si scopre che questo era uno strumento di mafia capitale, secondo te dimissioni? Secondo te dimissioni immediate? Beh, io credo che in qualunque altro comune d'Italia sarebbe già stato sciolto per la legge sull'infiltrazione mafia. Questa è la mia opinione. Va bene, Dino, grazie. Ciao. Dire ciao. Che colpa degli altri, dai. No, questo è ridicolo. Dai, ciao. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Im. Elo. Im. Mai al mondo verrà la fine. Mi segnalano, caro Parenzo, che siamo all'ottava laurea. Qualcuno del divino. Settima laurea del divino. Divino, buonasera, grande ritorno alla Zanzara. Vi salutiamo e benediciamo da Paraggi, non è la settima laurea, noi siamo iscritti alla settima. Ah, iscritti, scusi. Non abbiamo mai detto che siamo appena laureati nella sesta, come possiamo essere laureati nella sesta? Beh, noi ce ne portiamo altamente. Noi dopo la sesta ci siamo... abbiamo chiesto ed ottenuto di accedere direttamente alla magistrale ed è appunto la settima in letterature moderne e spettacolo. Ma anche chi se ne frega si può aggiungere. Ma questo io l'ho chiesto. Anche a noi di te proprio non ce ne potrebbe calere di meno, lurido, insignificante omuncolo, buttatelo nel cesso e facciamola finita con questo pagliaccio una volta per tutte. Basta, Parenzo, voglio togliti di mezzo, rifiuto del genere umano, togliti di mezzo, zombie significante. Parenzo, voglio parlare col divino, basta, fammi parlare col divino. Ma come si può in una trasmissione seria tollerare questo moncolo, questa nullità, questo pagliaccio? Tutti ridono, c'è un mio amico, Ettore, che a Genova conoscono tutti, me l'ha detto, si tratta di un grottesco pagliaccio, tu essere quello, vai a vendere un pino a Circo Bono, un pagliaccione, mettetelo nel cesso. Però Divino non si arrabbia. Più avanti come una talpa. Ma è possibile in un programma serio tollerare uno che non sa neanche parlare italiano? Però Divino, un colpo in testa, la spaccatura non può essere tollerata oltre un certo limite. Se si arrabbia, ne abbiamo già tanta in altri luoghi, si manca solo anche a Milano una spacciatura. Abbiamo già avuto in passato, occupiamoci di Roma. Però Divino, appunto, non si scaldi troppo, sennò poi roviniamo tutto. Ogni volta, no, che dentiera, lascia perdere. Adesso basta, Parenzo, devi stare zitto, mi devi fare parlare 2 secondi col Divino, perché sennò non è possibile ogni volta. Io voglio dirti soltanto questo, però. Quando i grandi parlano, i nani tacciono. Tu non puoi neppure leccare le nostre estremità, tu non sei degno di baciare i nostri sacri calzari. Vai a scuola prima, studia. Quando i grandi parlano tu devi tacere in reverente attesa della parola salvifica, perché tu non sai nulla, ripeti 100 volte ogni giorno, no, si sente male quando adesso, ti però, svegli, la sera quando vai a dormire, io non sono nulla. Questo tu sei nulla. Però, hai capito? Divino, nulla. Divino, non si scappa. Fammi parlare con la persona, l'unica seria che noi riconosciamo come tale. Non è che gli sta facendo un favore, sa, Cruciani. No, però Divino, però non si scaldi troppo, se no non vorrei che si sentisse male, perché poi. Allora, voglio chiedere subito a Divino una cosa. Fortuna, comunque, Renzi, no? Renzi. Ma cosa ne sa lui di Renzi? No, aspetta. Lui, ma però. Chiama di nuovo. Ma scusa, chiama Ricordo. polsi. Stai non zitto un attimo, abbassate il microfono, abbassate il microfono. Allora, Divino, devo dire la verità, bisogna ammettere una cosa. Il Divino Telma aveva previsto da mesi la caduta repentina nei sondaggi, nel consenso popolare di Renzi. Questo bisogna riconoscerglielo un po'. Divino, è vero o no? Ma questo è un fatto, basta andare in rete, analizzare sì. Per esempio le quattro interviste rilasciate a cavallo tra dicembre e gennaio, anche alla da Zanzara, chi? Libero sì. e ad altri, oltre che nel nostro male. Programma naturalmente sì. Un giorno da pecora, certo. Quello che sta accadendo al Duce fiorentino, sì. A quello che tutti a Firenze conoscono come il bomba, è semplicemente sì. Quello che noi avevamo già detto, insomma, cioè? Era un bluff, ma questo lo si capiva, era facile. Ma qualcuno addirittura, scusi Divino, qualcuno accosta la sua persona a quella di Renzi, ogni tanto dicono Renzi è come il Divino Telma, cioè sì, come... lo sappiamo. E lei è indignato? È indignato, siamo per questo. Molto indignati, l'abbiamo già detto, noi non vogliamo assolutamente accostati a questo grottesco omuncolo che veramente è incredibile possa essere preso in seria considerazione. È ignorante, è grottesco, è un pallonaro, girate per Firenze e chiedete chi è il bomba e tutti a ridere a crepapelle, insomma. È una cosa ridicola. Però scusi, molti accostano, uno dovrebbe essere contento di essere accostato al Presidente del Consiglio, no? Ma Divino. Per carità, non di questo Presidente del Consiglio. Ma perché non di... Non assolutamente quello... non di questo. Perché non essere accostati, che ne... tanto per fare un nome... Sì. Che ne so, De Gasperi. Sì. Allora sarebbe un onore, certo. Certo, ma nessuno ci pensa. Ma accidenti, il bomba, ma siamo pazzi. Scusi, per però carità. Perché non quella? No, assolutamente no, no perché non no? Il bomba. Altri casomai, c'è la Fanfani, va bene anche Fanfani. Beh, nessuno ci ha pensato però. Io Andreotti devo dire... meglio di no, ma insomma, al bomba assolutamente. Ma perché no, non querela perché per noi a una persona di questo livello sì. Estremamente basso, molto veramente basso, sì. Basso. E poi è un pallonaro, insomma. Ma scusi, Divino, non ha pensato ad andare in tribunale, cioè a denunciare per diffamazione, querelare chi fa questo accostamento blasfemo tra lei e Renzi? Ma perché mancano gli estremi? Mancano gli estremi. Effettivamente, però c'è di grande conforto una cosa che di grande conforto? Gli italiani che sì. Il bomba ritiene siano dei poveri stupidi, bomba, che sì. Pensa qualunque cosa io dica, ma vado lì con la lavagnetta, col gessetto, mi butto il secchio d'acqua sulla testa, sì, una sì. Storiolata, bevono tutto. Lui pensava questo, lui ci credeva veramente. Renzo, non hai nulla a dire e su invece questo. No, e invece no, perché gli italiani tutto sommato poi riflettono, valutano, fanno delle analisi, certo, non sono però... stupidi come lui pensa. Infatti ci ha beccato 1 milione di voti in meno rispetto alle precedenti che lei aveva previsto, naturalmente. Ma naturalmente, beh, certo. Naturalmente era previsto, perché lui no. La sua irrefrenabile voglia di potere sì. Assoluto sì. Oltre però non va oltre non va, oltre non va, anche c'era... perché lui non può, per sapere questo non può assolutamente dire. Modificare i dati del sistema. Sì. La situazione però, economica. Divino, un attimo solo. Parenzo, su questo... No, io vorrei soltanto sommessamente ricordare alla divina dentiera di signor Telma che in realtà ha detto una puttanata mega galattica, perché per dire queste banalità bastava leggere i giornali tutti questi mesi. Cioè, no, beh, voi... quello no, aveva previsto il crollo. A novembre nessuno diceva quello, a gennaio. Ma questo prevede le cose del giorno quello. Prima. Noi lo abbiamo detto. Questo il giorno poi dopo di noi. Guarda, detto, il metodo a dicembre si dava per scontato che il Duce Presidente avesse allora, ormai attinto il massimo raggiungibile, sarebbe rimasto lì per l'eternità, perché con la no, sua mano calvifica, seppur grassoccia, avrebbe risolto i problemi degli italiani. Torni nella spelonca per 40 euro a chi regalando fermo un divino, sorriso, fermo a divino. Chi regalando un selfie. Ecco, era questa la sua visione, un po' di lavagnette. I giornalisti naturalmente uno più chiaro dell'altro, tra l'altro perché scusi, chissà Divino. Come sono i media in Italia, con qualche rara eccezione, ma stringi stringi allora. È la pagnotta allora, il loro questo. Vero obiettivo, e pensavano questo qua ci dà una pagnotta a uno, una pagnotta all'altro, una pagnotta a quello, vi spiego la profezia. Ma pure Parenzo è al soldo di Renzi, secondo lei, Divino? Ma se Renzi assoldasse Parenzo, non abbiamo dubbi che Parenzo afferrerebbe la focacciola immediatamente, solo che Renzi, per quanto stupido sia, è ovvio che non ha soldi a fare Parenzo, certo, perché non può essergli di alcuna utilità. Va bene, potrebbe provarci e gli interesserebbero casomai delle menti ad un certo livello. Per esempio, che ne so, come si chiama quello che appare sempre? Allora, ti spiego qui il metodo. Quello che appare sempre in quei programmi con Santoro, come si chiama? Vabbè, con Santoro. Allora, aspetta un attimo. No, no, per carità, Ruotolo. Aspetti, buono un attimo, ti spiego. No, noi pensiamo a quel discepolo di Montanelli che riesce a tenere le sue membra. Ah, ma chi è? Porro. Come si chiama quello che Travaglio. Esatto, Travaglio. È chiaro che Travaglio indubbiamente sarebbe un fiore all'occhiello. E infatti il bomba ha telefonato a Travaglio. Sì, quando? Solo che Travaglio, davanti a questi ammiccamenti evidenti, no? Sì, la telefonata che arriva dal bomba, sicuramente è uno che non dice di sì, è uno che dice di no, perché Travaglio ha la schiena diritta. Invece Parenzo, ma altri no, altri figuriamoci, altro che schiena diritta. Sì, basta pensare a come si sono comportati i giornalisti nel ventennio fascista. Addirittura non è che sia molto cambiato rispetto a però allora. Divino, aspetti un attimo, Parenzo che dice? Solo un secondo, facciamo passi, veda tranquillo, metta le sue membra a riposo. Allora io ti spiego in 30 secondi il metodo Telma. Allora la profezia è questa, noi abbiamo divinato. Sì. A Roma c'è un grave problema, si chiama mafia capitale, ecco la profezia. Ma che cazzo di profezia è? Sono due giornali da settimane. Quando mai abbiamo fatto Telma? Questa no, non ha fatto questa quando il metodo Telma è che c'è dare le notizie il giorno prima e poi dire lo abbiamo registrato una richiesta è un taroccone la prima mafia capitale in cui ci si chiedeva Marino cadrà? Noi pensiamo e allora quasi tutti dicevano noi pensiamo che Marino sia in difficoltà perché l'ha chiesto Libero, ce l'hanno chiesto altri. Vabbè, ma adesso abbiamo detto no. Adesso la profezia non è questa. Cadere. Non può cadere. Infatti, la profezia è questa. La profezia è questa. Marino è in difficoltà. Questa è la profezia. Allora io voglio chiedere ma questo è falso. È semplicemente la profezia falso. Di questo personaggio malvissuto. Andate su Google, mettete Divino Telma. Vabbè, Marino, ragazzi, calmi tutti. E vedete cosa ha detto il Divino Telma a suo tempo. Divino, cioè, però Divino fa, mi segnalano. Se non sarebbe caduto però, tutti Divino, fermo, per fermo tutto. Cadente, per cui, Divino, fermo là. Allora mi dicono però che lei il giorno prima a Radio Cusano Campus, il giorno prima delle elezioni in Liguria ha detto che avrebbe vinto la Paita. Ogni tanto pure lei qualche errore lo commette pure qualche. Lei non è, solo errori o no? No, non no. È, non, noi abbiamo detto Radio Cusano, tra l'altro ma scusi lei si sente infallibile, abbiamo centrato in pieno anche queste ultime regionali. Ma cosa ha centrato in pieno? Un su camion sette, in faccia l'ha centrata in su pieno su sette candidati diciamo. Sì. Noi abbiamo formulato e l'abbiamo spiegato a Radio Cusano Campus alcune profezie sulla base ovviamente ma lei ha detto che avrebbe disponibili. Lei ha detto che avrebbe vinto la Paita. Le abbiamo centrate tutte, le abbiamo centrate nel caso della Liguria. Nel caso era così fatto. Noi intanto della Paita non ci siamo occupati neanche minimamente. Scusa, ma io l'ho sentito, se l'ho sentito. Avessimo dovuto votare noi avremmo votato per la candidata 5 Stelle che c'era infinitamente più simpatica della Paita. Ma siccome la domanda, l'unica domanda che ci è stata posta a un giorno da Pecora riguardava Totti in realtà. Noi abbiamo affrontato il problema di Totti. Il problema di Totti però è infatti lo abbiamo detto. Vabbè, però Divino, è roba passata, dai. È roba passata. No, non è la domanda è questa, velocissimamente su questo. Ticinio si poggia sui dati di nascita, ma siccome Totti in tre collegamenti consecutivi in tre date diverse ci ha dato tre date di nascita diverse, una diversa dall'altra, allora non è riuscito questo vaticinio per questo, ho capito. Ma è impossibile certo, se impossibile. Una persona viene, gli si chiede, ci dica l'ora di nascita e lui un giorno ci dice le 10 Divino, del mattino Divino. Poi ci dice le 10 di sera e poi ci dice mezzanotte, ma abbiamo i numeri, ma insomma